Incontri di Gianfranco Fabi. Troubled Water, con questa canzone tra le più note di Simon & Garfunkel, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Maurizio Focchi. Buonasera. Maurizio Focchi, amministratore delegato del gruppo Focchi di Rimini, poi ci spiegherà, per chi non lo conosce, che cosa fa il gruppo Focchi, ma prima di tutto gli chiediamo perché questo ponte sopra le acque agitate le piace e vuole diventare un po' il motto di questo nostro incontro. Sì, mi è venuto in mente con un flash nella memoria un momento in cui, da studente di medicina assieme a un amico, eravamo in Marocco a Ouarzazate e lui cantava sotto la doccia nell'ostello di Ouarzazate questa canzone. Quindi mi era tornato, è un po' un simbolo dei miei viaggi. 30 anni fa, possiamo dire. Eh sì, forse sì. Perché lei è stato studente in medicina. Sì, sì, sì, sì. Come mai questa scelta di appassionarsi della medicina, che poi mi sembra non ha fatto, ma ci spiegherà perché? Diciamo che sono stato combattuto anche rispetto all'azienda, rispetto a questa storia aziendale familiare che avevo, perché questa azienda festeggia quest'anno i 100 anni. Quindi c'era questo essere attirati anche da questa attività. Beh, essere attirati, ma poi, anche un po' un dovere di famiglia, essere un'azienda familiare. Sì, sì, però direi che in certi momenti ha prevalso il dovere, però visto che ho resistito tanto tempo e lo faccio con piacere, direi che è stato anche un piacere, insomma. Quindi, come prima, l'ipotesi è stata quella di fare il medico, però voleva... Sì, sì, sì. La sua vocazione sentiva di fare... Come mai? Sì, era quello. Poi c'è stato... comunque, non è finita del tutto. Diciamo che come medico non le consiglio di affidarsi a me, però ho conservato una passione, anche se non ho alcuna pratica, diciamo. Ma io con i medici non vado molto d'accordo, per fortuna. Sì. cerco di frequentarli il meno possibile. Sono d'accordo con lei. Ho conservato una passione, in particolare per un argomento che è quello della salute mentale. E, fra l'altro, 15 anni fa, ho fondato assieme ad altri un'associazione per l'aiuto a persone con malattia mentale, sia adulti sia bambini con disabilità e disturbi neuropsichiatrici, in popolazioni più povere. Quindi abbiamo progetti in India, in Africa, in Kenya, a Panama, in Albania, in Serbia. E quindi abbiamo avuto questi progetti proprio come grande sfida, ecco, per aiutare, certo, la malattia mentale, che è forse tra le malattie quella più dimenticata e più emarginata in ogni parte. Certamente anche più difficile, che poi ha dei risvolti molto, molto complessi spesso. È un tema che ci porterebbe lontano, però non vorrei perdere anche il filo di discorso. Sì. Abbiamo parlato del gruppo Focchi, dobbiamo parlare anche di questo gruppo che ha 100 anni, come mi diceva. Che cosa fa? Attualmente la nostra attività, già da molto tempo, è quella che potremmo definire dell'involucro completo dell'edificio. Cioè noi arriviamo quando esiste uno scheletro di acciaio o di cemento armato, edifici che possono essere edifici grandi come anche i grattacieli, e lo rivestiamo completamente. Ecco, non la piccola casetta in Canada, ma il grande grattacielo. E tra l'altro il grattacielo più grande d'Italia, che si sta completando proprio in questo periodo, ha le vostre facciate. Sì, questa è una grande soddisfazione, perché penso che sia un'opera importante che ci dà anche orgoglio, è un modo per festeggiare anche questi nostri 100 anni, diciamo, collegato anche all'Expo. Ecco, quindi il grattacielo Isozacchi, che è a Milano, a pochi passi peraltro dagli studi di Radio 24, è stato un lavoro impegnativo, possiamo dire è stato, perché sono praticamente completate. Sì, dovrà finire, sì, la facciata è completata, il lavoro è completato del tutto, sarà completato in marzo, e appunto per essere pronto per l'Expo. Sicuramente è un'opera importante, io penso che sarà un po' un simbolo per Milano, dopo il Pirellone, il grande, certo, Pirellone, un grattacielo di più di 200 metri, ecco, il fisco non ci ascolta, quanto costa una facciata di quel tipo? Siamo sui 600-700 euro metro quadro, ecco, circa 24 milioni. 24 Via, milioni, la se voleva fattura, sapere la cifra. no, ecco, per dare un po' l'ordine di grandezza, non è un piccolo edificio, è anche un impegno, appunto, non solo dal profilo finanziario, ma anche dal profilo tecnologico. C'è qualche particolarità tecnologica, qualche innovazione che voi avete portato in questa costruzione? Parecchie, forse quella che risulta così più evidente a tutti è questo cold bending, cioè questa curvatura a freddo dei vetri. È fatta di ogni 6 piani c'è una grande curva, ma anche i singoli vetri sono curvati soltanto per 3 centimetri a freddo, cioè sono forzati a freddo, non riscaldati, diciamo. E quindi questa è una tecnologia nuova su cui abbiamo fatto tanti test, anche all'invecchiamento, per non rischiare poi che Certo. si rompano in futuro. E comunque è un triplo vetro con una doppia camera, quindi anche dal punto di vista termico è molto Ecco, sono performante. soluzioni che comportano un rapporto molto stretto con gli studi di architettura. Sono più loro che propongono, sono più la vostra parte di proposta per realizzare queste soluzioni, perché uno può avere un'idea, ma poi concretamente bisogna anche che sia tecnicamente fattibile. Ecco, questo è un tema lungo e divertente, perché gli architetti sono un po' il nostro amore e anche la nostra preoccupazione, perché di volta in volta dobbiamo rendere fattibile quello che loro pensano. In effetti, molte volte si parte da un disegnino molto approssimativo che noi dobbiamo cercare di rendere fattibile. Difatti, noi nella nostra azienda non abbiamo architetti, per evitare che ci siano contrapposizioni. Abbiamo bisogno di ingegneri, periti, cioè persone molto concrete da contrapporre, diciamo, alla creatività e alla fantasia degli architetti. Il vostro mercato qual è? Questi i grandi edifici in Italia, all'estero qual è il paese in cui siete più Il presenti? paese in cui siamo presenti è l'Inghilterra. Siamo presenti da 20 anni. Londra, in questo momento, dopo una crisi tremenda negli anni 2000, quando c'è stato il fallimento delle 9 banche in Inghilterra, eccetera, 2009-2010, totalmente piatto il mercato, e adesso invece conosce Londra uno sviluppo immobiliare senza precedenti. E per fortuna diciamo che siamo lì e siamo molto soddisfatti. È un mercato molto, molto esigente, molto avanzato, molto tecnologico, con progetti di assoluto valore. Perché cioè, i vostri prodotti sono un po' un simbolo della modernità, queste facciate in vetro, in alluminio, magari in altre componenti. Penso anche alla terracotta, ho Sì, sentito la dire. terracotta è un. La ceramica, che peraltro è un prodotto tipico anche della zona di Rimini. Come viene usata la ceramica o la terracotta? Non so se ci sono differenze, non sono un No, tecnico. sì, la terracotta è un materiale, diciamo, fatto per estrusione, quello delle tegole anche, non so, Certo. e quindi viene usato in grandi dimensioni anche per il rivestimento di edifici ed è un materiale di moda. In questo momento stiamo finendo un lavoro a King Cross a Londra, che sarà occupato da Google, è fatto con tanta terracotta all'esterno, ad esempio, ed è un prodotto, direi, tipicamente italiano, ecco, che è stato usato le prime volte in questa architettura col vetro da Renzo Piano. Quindi si può coniugare la modernità con la tradizione, con l'uso di Sì, materiali sicuramente. tradizionali. Anni fa si usava fondamentalmente il vetro, adesso il vetro è il materiale fondamentale, ma viene abbinato a tanti altri materiali. La ceramica è un altro Certo. prodotto made in Italy fondamentale, che anche viene usato in grandi dimensioni per il rivestimento degli edifici. E quindi c'è, se vogliamo, ci sentiamo anche orgogliosi di portare questi materiali italiani all'estero, facendo l'involucro degli edifici. Anche perché gli architetti italiani hanno un buon nome all'estero. Ah, C'è Renato sicuramente. Renzo Piano, che è uno dei tanti, Sì. forse uno dei più noti, però ce ne sono anche molti altri architetti che hanno capacità e fama, che costruiscono all'estero. Sicuramente, noi sì, abbiamo lavorato con Fuxes, ad esempio, abbiamo lavorato con Gregotti o con tanti altri, insomma. E poi vi siete dedicati anche lateralmente a questa attività al cinema. Incontri. Ancora con Simon & Garfunkel, con questa notissima canzone, Bridge Over Troubled Water, Riprendiamo il nostro incontro con Maurizio Focchi, amministratore delegato del gruppo Focchi, un gruppo di Rimini, si è spiegato nella prima parte, che è un gruppo specializzato nella costruzione delle facciate esterne per i grandi edifici, stanno peraltro realizzando anche la facciata esterna del più grande grattacielo d'Italia, che si sta completando nell'ex fiera di Milano, la torre Isozaki di oltre 200 metri, e stanno realizzando anche altri edifici, grandi edifici soprattutto in Gran Bretagna, a Londra, lavorando molto vicini con gli architetti italiani che hanno una buona fama. Maurizio Focchi ci ha anche spiegato che da piccolo ha fatto medicina, è diventato un medico, ma poi il richiamo dell'azienda di famiglia è stato tale che è entrato in azienda pur mantenendo un interesse per la medicina, in particolare nell'ambito della salute mentale, dico bene, con iniziative anche verso l'estero, verso i paesi in via di sviluppo. E abbiamo concluso la prima parte parlando anche di un'attività che non so quanto sia marginale, che però mi sembra che appassioni Maurizio Focchi, che è quella del cinema. Perché si è interessato al cinema? Beh, l'inserimento è venuto tramite l'azienda, sempre tramite il contatto con la società Camelot, che segue anche la nostra comunicazione e segue specialmente il cinema e ce l'ha proposto. E diciamo che questa collaborazione è stata una collaborazione di successo, perché noi finanziamo dei film, dei nuovi film, e ne abbiamo, penso, un ritorno anche d'immagine. Forse in questo, secondo me, ci sta anche un po' l'amore per la bellezza, se posso dire questa parola, anche ambiziosa, perché lavorando nell'ambito dell'architettura abbiamo coltivato in noi un senso della bellezza. Io penso che il fatto di essere italiani in questo conti, ecco, quindi fare questi involucri di grandi opere architettoniche da italiani. Lo facciamo con una flessibilità che è particolare, proprio per andare dietro, certo, alle opere degli architetti, e anche con un senso estetico, un senso della bellezza che io penso che noi abbiamo innato, ecco, nel nostro. Quindi con una ricerca della bellezza, una ricerca di portare un po' all'esterno anche l'immagine e la capacità italiana, ma anche un po' con un interesse economico. Ci sono anche delle facilitazioni fiscali, dei ritorni, di agevolazioni, quindi è anche utile finanziare il cinema, e si unisce l'utile al dilettevole. Com'è? Sì, possiamo dire così, nel senso che c'è un ritorno d'immagine, certo, ci può essere, anche se il film ha successo, anche finanziando questi film, un ritorno economico dovuto a un'agevolazione fiscale. Naturalmente il film deve andare bene, ci deve essere, certo, un ritorno del finanziamento. Ecco, ma voi non vi limitate, lei non si limita così al finanziamento, ma vuole anche controllare che la pellicola sia adatta, sia bella. Qual è il coinvolgimento personale in questo settore? Beh, in alcuni casi, come questo film che è uscito ultimamente, Scusate se esisto, c'era anche addirittura un legame col nostro mondo, quello dell'architettura, perché la storia di un architetto che è la Cortellesi, che lavora italiana, che lavora a Londra, poi torna in Italia e come donna non riesce a sfondare, quindi trova varie escamotage. Quindi una parte del film, fra l'altro, è girato sul nostro cantiere, questo dove andrà ad abitare la Google a Londra. Sì. Ecco, quindi è un interesse molto, molto preciso, molto immediato, anche per far risaltare appunto le particolarità dell'impresa. È difficile far risaltare un'impresa, cioè fare impresa in Italia. Lei, peraltro, è anche vicepresidente attualmente di Confindustria Emilia Romagna, è stato per alcuni anni anche presidente di Confindustria Rimini. Fare impresa in Italia è sempre un po' difficile. Sì, sicuramente è difficile. Sembra di portare un grosso carico sulle spalle e di andare controcorrente. E gli ultimi anni poi hanno evidenziato una grande crisi, come sappiamo, da cui non siamo ancora usciti del tutto. E questo ha portato a creare una specie di divisione tra aziende che lavorano in Italia, sono in grandissima ancora difficoltà, aziende che lavorano all'estero invece, che adesso si possono riprendere. Quindi la divisione quasi tra due gruppi di aziende, alcuni che vanno verso sempre maggiore difficoltà e alcuni invece che vanno verso la ripresa, questo si sta creando. Certo, poi in che percentuale siete come fatturato estero rispetto a attualmente? Beh, storicamente circa il 50%, ma attualmente dobbiamo fare più estero sicuramente, perché l'Italia, specialmente nel settore delle costruzioni, rimane una grande crisi, grandissima. Ecco, come mai? Mancano gli investimenti pubblici, quelli privati, mancano le autorizzazioni, mancano le concessioni, ci sono i comuni che frenano. Come mai c'è questa stasi? secondo me sicuramente ci sono due fattori che si sposano nell'ambito delle costruzioni. Uno è la carenza di domanda, perché ci sono comunque molte residenze e anche molti uffici invenduti, quindi sicuramente la domanda è diminuita, e poi c'è il rapporto col credito. Il settore immobiliare delle costruzioni era molto indebitato all'inizio della crisi. Ma con i tassi così bassi dovrebbe essere più facile. I tassi sì, però comunque c'è stato un restringimento di tutto il credito, ma in particolare nei riguardi dell'immobiliare, perché siccome all'inizio della crisi il settore bancario era molto indebitato col settore immobiliare, e anche come direttiva generale della Banca d'Italia c'è stato un restringimento proprio anche molto nei riguardi del settore immobiliare. Ma c'è qualche segnale in questo inizio di 2015 che qualcosa si stia muovendo, un po' la BCE con questo allentamento monetario, un po' una certa fiducia che sembra tornare? A qualche segnale lei, non solo dalla sua azienda ma anche da parte delle aziende emiliano-romagnole, che qualcosa si sta muovendo o no? Beh, l'immediato del settore costruzioni, secondo me i segnali non sono ancora positivi, sono negativi. In generale i segnali migliori sono, ripeto, riguardo all'export, all'internazionale. Sull'Italia non ancora. Però un export che si sta un po' allargando, perché anche l'Europa è un po' ferma, quindi bisogna fare un'esportazione che sia per i nuovi mercati, per l'Asia, quindi più difficile, più complicata. È più difficile, però è la sfida inevitabile che ci sta davanti, ma anche gli Stati Uniti che stanno riprendendo molto bene, quindi per molte aziende italiane è uno sbocco molto naturale, insomma. Quindi anche per voi, anche per il gruppo Focchi, quali sono i mercati su cui state puntando, tra appunto Italia e Gran Bretagna? Adesso siamo molto occupati con la Gran Bretagna, ma stiamo guardando ad altri mercati vicini a questi dal punto di vista tecnologico, e quindi quelli con una edilizia di valore di livello elevato. Sono ad esempio i paesi scandinavi e sono ad esempio gli Stati Uniti. Ecco, un'altra realtà difficile in Italia è quella dell'innovazione. È così complicato fare innovazione, avere innovazione. Voi non avete architetti in vostra azienda, però avete molti ingegneri probabilmente. Sicuramente. La nostra innovazione è sui progetti, perché i progetti che facciamo sono ogni volta più prestazionali, ogni volta richiedono dei confini architettonici sempre più elevati, dimensioni di vetri ogni anno più grandi, ad esempio, perché l'architetto vorrebbe un palazzo fatto da un vetro unico praticamente. Ma l'altro obiettivo importantissimo è quello energetico, perché in fondo io penso che i materiali metallo e vetro siano i materiali del nostro secolo, e quindi bisogna costruire con quelli, perché creano questo rapporto con l'esterno assolutamente aperto. Ma d'altra parte però devono essere sempre più prestazionale, nel senso di non disperdere energia. È inutile che la produciamo col fotovoltaico sui tetti degli edifici e poi la disperdiamo attraverso le vetrate. E quindi il grosso tentativo è di creare vetri sempre più performanti e utilizzare anche tanti altri materiali, come quelli che dicevamo prima, terracotta, ceramiche, metalli vari, in modo da creare anche altre barriere tra l'edificio e l'esterno e migliorare le barriere termiche. Negli ultimi anni, comunque, grazie a questa innovazione si è creato un maggiore risparmio energetico, una maggiore sostenibilità degli edifici. Sono fatti dei progressi concreti? Si stanno facendo, sì, dei piccoli passi ogni anno si migliora. Ad esempio sui vetri ogni anno ci sono dei miglioramenti. È un settore in cui l'evoluzione tecnologica negli ultimi 10 anni è stata altissima. E quindi su questo profilo si può pensare appunto di risolvere entrambi i problemi, quello della sostenibilità ambientale e anche quello dell'economicità, poi, perché anche spendere di più per poi risparmiare di meno non è molto economico, bisognerebbe spendere e risparmiare di più di quanto si spende. No, certo. Quindi ci vuole sempre un ritorno dell'investimento, questo è l'obiettivo. E l'altro grande però obiettivo è quello di integrare tutto l'edificio, cioè di riuscire a mettere insieme involucro, impianti, buona progettazione. Cioè vorrete fare tutto voi in pratica, oppure magari ci potrebbe provare, però più che altro è fare gruppo e rete con gli altri produttori che realizzano l'edificio. Ecco, e in Italia ci sono anche appunto aziende specializzate in settori che possono unirsi, mettersi insieme per realizzare appunto questa realtà, magari settori di nicchia, uno che fa, che so, le piccole giunture, che però sono importanti e che magari se uno volesse fare tutto riuscirebbe a fare non bene, non come si dovrebbe fare. Quindi c'è questa realtà di piccole e medie imprese che possono essere subfornitori con un compito operativo anche positivo? Assolutamente. Noi, faccio un esempio, all'aeroporto di Osaka, fatto con Renzo Piano, abbiamo coinvolto un'azienda produttrice di carburatori di moto per fare le fusioni degli interni dell'aeroporto di Osaka. Questo è un esempio, secondo me, molto... Certo, che rende molto di collaborazione. In una regione dove peraltro di produttori di moto e di macchine ce ne sono, quindi le tecnologie in quel campo sono certamente apprezzabili ed evolute. E ci avviamo verso la conclusione. Se lei volesse fare un auspicio per questo 2015, che è già iniziato da qualche settimana, però facciamo gli auguri di buon anno lo stesso, quale può essere l'auspicio dal punto di vista economico-produttivo per le imprese italiane? Qual è il passo più importante che devono fare e a cui possono essere aiutate? Prima di tutto tenere duro e cercare, come abbiamo fatto in questi anni noi ma anche tanti altri, di provarne tanta senza perdere la fiducia, e quindi provi a riorganizzarti, provi i nuovi mercati, provi i nuovi prodotti, e non bisogna mollare anche se si sbaglia qualcosa. E l'altro è guardare con fiducia il futuro, perché diciamo anche un dovere, ecco, certo. Oltre che un piacere. Sai che abbiamo tanti problemi, ma come i medici, lei è un medico, ad ogni problema ci vuole una soluzione. Dobbiamo cercare di avere una soluzione in più dei problemi. Sì, ci riusciremo? Sì. Qui bisogna fare anche nell'azienda, un po' come si fa in medicina, fare sia il pronto soccorso, quindi riuscire a sopravvivere a breve, sia della prevenzione per progettare a lungo termine. Quindi avete festeggiato i 100 anni, diciamo i primi 100 anni della vostra azienda, e l'Italia ha festeggiato da qualche anno i 150 anni. Guardiamo in avanti, non ci diamo appuntamento per i 200 anni, però magari fra 10 anni, per i 110, potremo fare il punto della situazione. Ci proviamo. Grazie Maurizio Focchi, amministratore delegato del gruppo Focchi di Rimini, di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e l'appuntamento è per domenica prossima.